Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. La pala di una grande turbina eolica del tipo che si può incontrare per esempio al largo delle coste del nord Europa è lunga una sessantina di metri e pesa da sola una ventina di tonnellate. Stiamo parlando delle grandi pale eoliche offshore. Alla punta della pala una di queste turbine eoliche è alta qualcosa come 150 metri. D'altronde più si sale e più c'è vento e più è ampio il cerchio disegnato dalle pale della turbina e più energia si riesce a catturare e a convertire in energia elettrica. Ormai però ci troviamo di fronte ai limiti strutturali di questi oggetti, tanto che si stanno elaborando per esempio soluzioni totalmente alternative che prevedono l'uso di aquiloni anziché di turbine per intercettare il vento. Sembra tuttavia che ci siano ancora dei margini di miglioramento per questa soluzione delle turbine eoliche ben più consolidata. Ne parliamo con Roberto Frassine, che è docente di materiali polimerici e compositi al Politecnico di Milano e tra l'altro è anche presidente di Assocompositi. Buonasera Frassine. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, senta, ci dica subito un numero. Qual è la potenza, quanto è grande, la più grande turbina eolica esistente? Dunque, oggi ci stiamo avviando a passi molto rapidi verso la produzione di energia elettrica fino a 10 megawatt. Oggi la più grande turbina esistente è intorno ai 7-8 megawatt di potenza. Megawatt significa milioni di watt, quindi una quantità di energia elettrica molto considerevole. Parliamo di centinaia di famiglie. Centinaia di famiglie. Giusto, una sola turbina. E ha tre pale delle dimensioni di 80 metri ciascuna di lunghezza per un peso sempre per ciascuna di ben 35 tonnellate. Tenete presente che l'area di vento intercettata da queste turbine è di più di 20.000 metri quadrati, tanto per darvi un'idea, 4 aerei da trasporto passeggeri Airbus A380, uno di fianco all'altro, quindi un oggetto. Sono veramente delle macchine gigantesche. Ecco, abbiamo detto però che siamo vicino ai limiti strutturali. Cosa significa concretamente questo? Dov'è il punto debole? Cos'è che si può rompere? Sì, ecco, pensate che queste turbine, quando in condizioni di vento forte, girano a una velocità tale per cui la pala viaggia a 360 km all'ora nella sua 100 metri sua al secondo la punta della pala, sì, quindi. Sì, sì, quindi molto di più di un nostro treno ad alta velocità anche lanciato alla massima velocità. Quindi immaginate i problemi strutturali e poi con questi pesi anche dal punto di vista statico la pala comincia ad avere dei problemi. Quindi i principali costruttori mondiali si stanno spostando dalla costruzione tradizionale con fibre di vetro a costruzioni più sofisticate che prevedono una combinazione di diverse fibre, tra cui anche le fibre di carbonio che finora erano state usate solo per applicazioni molto speciali, che sono più leggere e più resistenti e quindi ci consentiranno di andare verso pale di dimensioni ancora più grandi di quelle attuali. E fin dove si può arrivare? Insomma, ci sarà un limite a un certo punto? Sì, non porrei limiti a questa. È chiaro che diciamo rispetto a quando siamo partiti le prime pale eoliche per la produzione di energia elettrica sono comparse alla fine dell'Ottocento, pensate che avevano già un diametro di 50 metri e 144 pale fatte di legno e di stoffa, oggi siamo ai materiali per lo spazio, io direi non poniamo limiti alla dimensione di questi oggetti che certamente cominciano a essere comunque oggetti molto molto impressionanti. Vabbè, insomma tra un po' al posto dell'effetto NIMBY avremo l'effetto NEMBO, nel senso che arriveranno direttamente nelle nubi. Senta, quali possono essere altre direzioni di sviluppo della ricerca in questo campo, quello delle grandi turbine eoliche? Beh, diciamo che dobbiamo andare a cercare le zone dove finora non è stato conveniente installare queste turbine, quindi tipicamente le zone a ventosità un po' più bassa. Il nostro territorio nazionale, tra l'altro l'Italia è in Europa la terza nazione in termini di potenza eolica installata dopo la Germania e la Spagna e l'Europa, come forse qualche radioascoltatore saprà, è sicuramente quella che ha più potenza eolica installata al mondo come regione industrializzata. Oggi se vogliamo produrre energia eolica dal vento dobbiamo andare verso in zone a ventosità più basse, quindi sviluppare macchine in grado di intercettare venti a velocità più basse. Tipicamente sul nostro territorio nazionale la velocità del vento è dai 4 ai 6 metri al secondo, molto inferiore a quella ai 12 metri al secondo, per cui la maggior parte delle turbine sono state progettate. Quindi saranno anche pale, per esempio, che devono resistere a venti violentissimi. Noi non avremmo bisogno di costruire pale così resistenti, perché da noi quei fenomeni si verificano di meno, non lo so. È una domanda. Sì. Noi al Politecnico stiamo facendo ricerca in questo settore e molto attivi sono i colleghi del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale. Noi possediamo una galleria del vento nella nostra sede di Bovisa, che è molto ben equipaggiata per fare prove su turbine eoliche. I nostri colleghi lavorano per i principali produttori mondiali e sono in grado di sviluppare modelli aeroelastici molto sofisticati, dove tengono conto non solo dell'effetto della forma di questi oggetti, ma anche del loro comportamento meccanico e in particolare della deformazione, per esempio delle pale, per effetto della spinta del vento. Cioè in pratica è possibile, ecco, prego. Consente di fare simulazioni molto accurate e di tenere conto non solo quindi del funzionamento della pala, ma anche per esempio dell'orografia del territorio, quindi vedere come montagne o edifici vicini a questi oggetti possono interferire, e addirittura del moto ondoso per quanto riguarda le pale posate offshore, cioè diciamo nel mare. E poi soprattutto si riesce a verificare se queste pale resistono alle sollecitazioni, no? Siete assolutamente, proprio... qual è l'efficienza della macchina in termini di produzione di energia elettrica, che è sicuramente quello che interessa di più ai gestori di queste macchine. Va bene, abbiamo imparato un sacco di cose sull'eolico, grazie professor Frassine. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, parleremo di inverter, un termine di cui tutti dobbiamo imparare a conoscere il significato. Buona serata.